Cari amici di Radio Pazza, questa è Radio Prisma 16. Better years are gonna come, migliori anni devono arrivare, e loro sono i Motley Crue con The Motherfucker of the Year. Censurata questa del brano dei Motley Crue, ma che ho preferito ad altre per la carica che mi ha trasmesso. Beh, non deve essere senz'altro una sensazione piacevole quella di sentirsi un po' il figlio di Troia, il bastardo dell'anno, quando ci si accorge di aver commesso insomma delle cavolate o comunque di aver messo in atto dei comportamenti sbagliati che hanno portato prima di tutto noi stessi a non riconoscerci nel nostro riflesso allo specchio. E per uscire da questa condizione, ma ci vorrebbe quasi una preghiera per l'anno nuovo. E allora ascoltiamoci Jeff Buckley con la sua New Year's Prayer, da Sketches for My Sweetheart the Drunk. Thank you. Sempre splendido Jeff Buckley, seppur in questa versione incompleta, perché come alcuni di voi sapranno, questo lavoro non è stato mai portato a compimento per la prematura morte dell'artista. Nonostante appunto questi suoni ancora non del tutto definiti, questa linea un po' scarna, beh, la voce di Jeff Buckley, solo lei, insomma, è in grado di trasmetterci sensazioni veramente intense e potenti. A questo punto, ma per aiutarci appunto ad accettarci così come siamo e ad andare avanti immersi nella luce che ci accoglie, come per parafrasare il testo di Jeff Buckley, voglio di nuovo aprire a caso il libro che vi ho già proposto precedentemente, cioè A tu per tu con la paura di Krishnananda, edizione Feltrinelli, che vorrei in questo modo, diciamo, regalarvi virtualmente, non potendolo fare di persona. Quindi invito chi apprezzerà quanto sto per leggervi ad acquistare questo libro ed a prenderlo come se fosse un mio regalo. Allora, prendo a caso la pagina, esattamente alla pagina 187, mi soffermo sul il paragrafo pazienza e fiducia. Nel mondo della meditazione esiste un senso del tempo differente da quello che c'è, diciamo, sull'autostrada di Los Angeles. Sarebbe inutile cercare di convincere qualcuno imbottigliato nel traffico con il cellulare in mano della veridicità del vecchio detto zen che afferma: seduto in silenzio senza fare niente, la primavera arriva e l'erba cresce da sola. La pazienza non è mai stata una delle mie doti principali. Quando ero bambino, mia madre era solita dire ai miei insegnanti: una cosa posso dirle sicuramente di lui, non riesce a starsene seduto fermo, deve sempre fare qualcosa. Ma nella guarigione del nostro bambino interiore niente accade velocemente, è un processo lento e delicato. Ciò è vero anche per la meditazione. Se meditiamo con uno scopo, saremo presto stanchi e frustrati. In entrambi i casi, sia nel lavoro sul bambino interiore, sia nell'approfondire la nostra meditazione, dobbiamo solo goderci il processo. Possono passare dei lunghi periodi di tempo senza che notiamo alcuna variazione evidente nel nostro comportamento, nelle nostre attitudini verso noi stessi e verso gli altri. Può diventare davvero frustrante e scoraggiante, ma poi improvvisamente qualcosa cambia radicalmente. Il nostro lavoro comincia a fiorire, le ricompense esterne arrivano, oppure riusciamo a creare una vita amorosa più profonda che ci dà più nutrimento. Nei primi giorni del mio lavoro di terapia su me stesso, i cambiamenti sembravano più radicali. Stavo attraversando dei processi molto forti che avevano messo in moto un'incredibile quantità di energia repressa. Ma una volta che ho cominciato a lavorare sulla codipendenza e sul bambino interiore, ad affrontare la mia vergogna, il mio shock, le mie paure dell'abbandono e dell'intimità, a esplorare spazi di profonda paura e di vuoto, i cambiamenti non mi sono più sembrati così veloci e radicali. Tuttavia sento che sono più profondi. Il lavoro fatto in precedenza aveva soddisfatto la mia fame di risultati veloci, ma con il lavoro sul bambino interiore ho dovuto imparare la pazienza. Riesco a capire che l'affrettarmi, il pianificare, l'ambizione vengono tutti dal mio bambino in panico. La pazienza proviene da una profonda fiducia che tutto ciò che si vuole accada e che deve accadere accadrà a tempo debito. La pazienza e la fiducia sono strettamente intrecciate. Sedermi in meditazione con il mio maestro e percepire le qualità di assenza di tempo, di lentezza e di centratura che emanano da lui, mi sta lentamente insegnando la pazienza e la fiducia. Nessuna fretta, nessuna programmazione. Nient'altro che questo momento. Trasportata nell'arena delle relazioni e della cura della codipendenza, questa qualità ha un profondo impatto. A certi livelli, il nostro bambino interiore rimarrà affamato in preda al panico. Quello che cambia è il nostro stato meditativo, che diventa più forte, e la nostra fiducia, che diventa più profonda. Non si tratta nemmeno di fidarsi di qualcuno in particolare, ma di sviluppare uno spazio di fiducia in generale. In qualche momento io ho questo spazio, che sembra crescere con la meditazione. Nessuno può darmelo, devo trovarlo dentro di me. È come una caccia al tesoro. Questa calma nel nucleo centrale del nostro essere eclissa tutti i nostri traumi emozionali, le paure e i dubbi. Questa era Krishnananda, Tu per tu con la paura. Ebbene, non dico che bisogna meditare o fare qualsiasi attività specifica per guarirci, ma credo che ognuno di noi poi possa trovare il proprio modo per ritrovare la calma e la fiducia, prima di tutto verso se stessi, perché sembreranno banalità, ma parte tutto da lì. Parte tutto dai comportamenti che noi stessi accettiamo o reprimiamo, e il mondo esterno poi si comporta di conseguenza. Quindi il mio vuole essere, ecco, un modo per augurarmi ed augurarvi un cammino, diciamo, progressivo di affermazione di se stessi. E vorrei perciò farvi ascoltare adesso, dopo Jeff Buckley, i The Walkman con In the New Year. Male, no, questo pezzo mi ricorda un po' gli Animal Collective, non so, forse per i suoni così potenti, anche un po' danzerecci, perché no. Anche il testo non è niente male e mi ci rispecchio abbastanza. Sì, sto ancora vivendo al mio vecchio indirizzo e sto aspettando il tempo migliore, che so che passerà, so che sarà un anno positivo. che mi farà uscire dall'oscurità e mi farà attraversare il fuoco. Ti dirò che ti amo e il mio cuore è nel posto più strano, è lì che tutto è cominciato ed è lì che tutto finirà. E so che tu sei con me da un punto d'orgoglio e sarà più forte dei lampi in questa mia stanza, e io sono proprio come te, non sento mai le notizie cattive e non lo farò mai. Poi salto alcuni pezzi. Ti sei preso il tuo tempo, il tuo dolce tempo, io ho aspettato senza un lamento finché tutti i sogni non mi hanno fatto diventare matto, e adesso è finito in qualche modo. Ti sei preso il tuo tempo e finalmente ho aperto gli occhi. I miei amici e la mia famiglia mi chiedono tutti una sola cosa: quanto tempo soffrirai? Quanto tempo starai ancora con me? La neve sta ancora cadendo, io sono quasi a casa. Ci vediamo l'anno prossimo. Diciamo, tradotto un po' così sull'impronta, più o meno il senso si è capito. Cosa aspettarci per l'anno che verrà? Ma sinceramente non mi importa molto il passaggio tra un anno e l'altro, tempo di bilanci, tempo di speranze. Sono cose un po' che lasciano il tempo che trovano, tanto per giocare sempre sul filo del tempo. E vorrei adesso ascoltare con voi un pezzo che molti conosceranno e magari può essere anche abbastanza scontato, che però per me ha sempre un certo fascino. The Last Good Day of the Year, Cousteau. I guess C'è niente da fare, questo pezzo mi fa sempre sognare. Che meraviglia riuscire a scrivere della musica così, non lo so, non so neanche io come definirla. Boh, non vorrei ricominciare a dirvi delle vibrazioni perché ormai ne avrete le palle piene, quindi dirò solo che mi ha emozionato da morire. E adesso invece ci sentiamo un altro pezzo, questa volta il gruppo si chiama The New Year, mentre il brano si chiama The End's Not Near, la fine non è vicina, che mi sembra un ottimo augurio, e speriamo insomma che il tempo non sia tiranno e che piano piano, a costo di sacrifici immani e di scalpitante energia, riusciamo ad ottenere tutto quello che ci siamo prefissati, o perlomeno che riusciamo sempre a non smettere di provarci, no? Watch the moon. se la fine non è vicina, allora vuol dire che forse abbiamo una nuova possibilità, la possibilità di riscrivere delle righe del nostro libro, in fieri, per dire, no? Sentiamoci allora Planet New Year di Sarah Blasco, e se vi capita andate su YouTube e date un'occhiata al video perché è molto carino. È la storia di una ragazza che conosce e si innamora di un uomo pianoforte, e non vi dico nient'altro perché vi lascio alla visione del video e ovviamente adesso all'ascolto della canzone. Caso ve lo stesse chiedendo, vediamo di dare qualche notizia su questa Sarah Blasco, una cantautrice australiana. Il suo album d'esordio si chiama What the Sea Wants, the Sea Will Have, quello che il mare vuole, il mare avrà. E ha collaborato con un produttore, ingegnere del suono di Sanza a New York, chiamato Victor Van Vugt. E la cosa interessante è che il suo produttore appunto ha lavorato anche con Nick Cave and the Bad Seeds. Ma adesso dall'Australia ce ne torniamo negli Stati Uniti con i Death Cab for Cutie. Lo so, ultimamente li sto passando spesso, ma non è colpa mia se oltre ad aver fatto una canzone sul Natale ne ho fatta una anche sull'anno nuovo, appunto i Death Cab for Cutie con The New Year. Let's make believe that we are wealthy for just this once. Lighting firecrackers off on the front lawn as 30 dialogues bleed into one. I wish the world was flat like the old days, and I could travel just by folding the map. No more airplanes or speed trains or freeways. There'd be no distance that could hold us back. There'd be no distance that could hold us back. Distance that could hold us back. So this is the new year. So this is the new year. Adesso ragazzi, se per la prima parte vi ho sparacchiato nelle orecchie un po' di canzoni internazionali sul Capodanno, ma non proprio, perché poi alla fine si parla più che altro di nuovo anno in generale, anche in senso metaforico, sto per fare un triplo salto carpiato per introdurvi la seconda metà. E niente, ho deciso di farvi ascoltare un vero capolavoro di poesia e di arte musicale italica. Lo so ragazzi, che devo fare? Questo pezzo d'altronde qualche anno fa sono stata addirittura capace di mettermelo come suoneria nei giorni precedenti e di poco seguenti il Capodanno, per cui vi ho detto tutto. No, a parte gli scherzi, dai. Vabbè, va, non vi dico chi è, ascoltatevelo. Potrei però recuperare un vecchio jingle, il Che cazzo c'entra di Buck e Grex, ci starebbe tutto in questo caso. Già stanotte che se fa, io non c'ho voglia di inventarmi niente, dormirei solamente e lascerei le cose come stanno, anche se è il nostro primo capodanno. Se andiamo a letto mica casca il mondo, io dico sì noi due stanotte s'addormimo. Ma che famo de strano, no no, l'amore non me va, c'ho il corpo qui ma la mia testa è altrove, manco so bene dove. Immagino attaccata all'alto mare con tante idee confuse da ordinare. Stasera non mi chiede se te amo, perché te direi sì pensando a un aeroplano o a qualcosa di strano. Il nostro capodanno, sai l'altri che faranno, sicuro brinderanno e poi si imbriacheranno finché si stancheranno e a casa torneranno gridando a tutto il mondo auguri de buon anno e poi buon anno e se violenteranno a colpi de buon anno e poi buon anno e poi buon anno. Già stanotte che se fa, a me te perde tempo con la gente, non me frega più niente. Per quanto mi riguarda ho già deciso, però non vorrei essere depeso. Auguri di buon anno in ogni caso, se te vai a divertir oppure si rimani, se sentimo domani. Il nostro capodanno, sai l'altri che faranno, sicuro brinderanno e poi si embriacheranno finché si stancheranno e a casa torneranno gridando a tutto il mondo auguri de buon anno e poi buon anno e se violenteranno a colpi de buon anno e poi buon anno e poi buon anno e poi buon anno, buon anno io m'addormo. Scusate, sono ancora piegata in due da ridere. Caro M, tutta colpa tua. No, più che altro mi fa troppo morire perché è veramente un inno contro l'ipocrisia del Capodanno. Immagino la scena della gente che si prende a colpi di buon anno e poi buon anno. Vabbè, che devi fare? Purtroppo è così, bisogna divertirsi, no? Se non ci si diverte a Capodanno, poi porta iella, perché quello che fai a Capodanno poi lo fai tutto l'anno, quindi vabbè, ci siamo capiti. Ci daremo da fare, va? Beh, questa puntata sarà parecchio ricca di musica, vedo che sono neanche a metà della scaletta, spero che sia comunque sempre di vostro gradimento. Un altro salto carpiato, perché adesso ci ascoltiamo un gruppo che potrei chiamare i Green Day in salsa giapponese. Loro sono gli Hellgarden con New Year's Day e anche qui strizzo l'occhio a un mio capodanno passato in cui il pomeriggio chiamai qualcuno da una cabina telefonica, come ho trovato poi anche nel testo di questo pezzo, e ho sorriso ricordando quel pomeriggio. Yesterday, I remember your phone call. Was the last day of that year. We bought her cheap wine, girl at the backseat. Car stereo's playing so loud. My stupid songs, my stupid words never change. I don't forget. I'm che godimento, sono tornata adolescente. Dice, come? Non sono mai diventata adulta? Oddio, in effetti, devo ammettere che l'aspetto esteriore non è proprio quello di un'adulta. Quello su quello interiore lavorativo ci sto lavorando, dai. Diciamo che quest'anno sono stati fatti diversi passi avanti verso l'adultitudine. E ora facciamo un altro salto carpiato. Dice, ma quanti ne fai oggi? Lo so, se non li fai a Capodanno, quando li fai? Mai. E quindi adesso ci sentiamo un Nancy Wilson con What Are You Doing New Year's Eve? Cioè, cosa farai la notte di Capodanno? Maybe it's much too early in the game, but I thought I'd ask you just the same. What are you doing New Year's? New Year's Eve. One those arms will hold you good and tight. When it's exactly 12 o'clock that night, welcoming in the new year. New Year's Eve. Maybe I'm crazy to suppose I'd ever be the one you chose out of a thousand invitations you receive. I stand one little chance. Here comes the jackpot question in advance. What are you doing New Year's? New Year's Eve. But in case I stand one little chance, in advance, what are you doing New Year's? New Year's Eve. Ah, che dolcezza, l'amore. E quindi questa canzone è sicuramente un inno a un bel lentone di Capodanno, oppure anche a starsene stretti stretti tra le braccia dell'amato o dell'amata. Ma non tutti sono così, diciamo, fortunati, ma oltretutto un conto è chiedersi cosa si farà la notte di Capodanno, un conto è chiedersi cosa si farà per il resto della propria vita. Ci risponde una struggente, intensa e spettacolare voce, quella di Barbara Streisand con What Are You Doing The Rest Of Your Life? Preparate i fazzoletti, va, mi sa che è meglio. Ok, ready to go. What are you doing the rest of your life? North and south and east and west of your life. I have only one request of your life, that you spend it all with me. The seasons and the times of your days, all the nickels and the dimes of your days, let the reasons and the rhymes of your days I'll begin and end with me. I want to see your face in every kind of light, in fields of dawn and forests of the night. And when you stand before the candles on a cake, oh, let me be the one to hear the silent wish you make. Those tomorrows waiting deep in your eyes, in the world of love you keep in your eyes, I'll awaken what's asleep in your eyes. It may take a kiss or two. Chiedi se ci è piaciuta Barbara. Mi fa sempre uno strano effetto pronunciare il nome Barbara. Beh, certo che ci è piaciuta, però, beh, insomma, bisogna ammettere che non è proprio il mood migliore, no? Per una serata di passaggio al nuovo anno. Ma poi alla fine, no? Questo capodanno, boh, tutto sommato, tra 100 anni, a partire da oggi, la gente sarà cambiata. Grand Parsons dei Byrds non la pensa così, perché tanto la gente sta sempre lì a parlare, e si sbaglia, non si rende neanche conto del casino in cui ci troviamo, e nessuno pensa che tutto quello che accade oggi potrà succedere ancora. I The Byrds con 100 Years From Now. Yeah. E vabbè, nel 68 avevano già capito tutto questi Birds, ma c'era qualcuno che è andato addirittura oltre, preconizzando millenni e millenni a venire. E questo pezzo che adesso vi faccio ascoltare è stato primo in classifica nel 69, si intitola In the Year 2525, nell'anno 2525, e loro sono Zegger and Evans. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do and say is in the pill you took today. In the year 45, 45, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew, nobody's gonna look at you. In the year 55, your arms are hanging limp at your sides. Your legs got nothing to do, some machine doing that for you. In the year 65, 65, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too, from the bottom of a long last tube. Whoa, around himself and say, guess it's time for the judgment day. In the year 8510, God is gonna shake his mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, or tear it down and start again. Oh, oh. In the year, if man is gonna be alive, he's taken everything this old earth can give, and he ain't put back nothing, whoa, whoa. Now it's been 10,000 years, man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may. Un quadro piuttosto fosco quello che nel futuro ci presentano Zegger and Evans, a dispetto della melodia allegra comunque del pezzo. Un quadro in cui le macchine prendono sempre più il sopravvento sugli esseri umani, che chissà, forse già adesso è una situazione che cominciamo a vedere, l'uso sempre più spinto del computer in diversi ambiti della nostra vita, dallo svago al lavoro all'interazione sociale, ci sta portando sempre più a muoverci di meno, almeno molti di noi sono diventati più sedentari e a fare meno vita all'aperto rispetto a prima, chi lo sa. Ma adesso facciamo un altro salto temporale e geografico e ce ne andiamo a Toronto, in Canada, per ascoltare due sorelle, le Obijou, giovanissime, una dell'85 e una dell'81, che hanno creato questo progetto indie pop in cui utilizzano, oltre agli strumenti tradizionali, anche strumenti un po' più particolari come l'ukulele, il banjo, il mandolino e altri. Questo è New Year's e loro sono le Obijou. Niente male, queste Obijou, anche se per alcuni versi, non so, mi hanno ricordato un po' le Coco Rosi, non so perché, però ho avuto questa sensazione qui. Ma poi tutto sommato, che ce ne importa delle categorizzazioni, delle somiglianze, se un pezzo è bello e basta, no? Senza star lì. Io non sono di quei tipi che si mettono a litigare sulla bravura di un gruppo piuttosto che di un altro. Lo trovo una cosa abbastanza sterile. Poi, per carità, è bello anche appassionarsi a tal punto per qualcosa da discuterne in maniera accesa, però preferisco ascoltare piuttosto che azzuffarmi anch'io. Anche perché, insomma, a volte mi sento talmente ignorante che preferisco, ecco, ascoltare con il corpo piuttosto che col cervello. E adesso invece ci ascoltiamo un pezzo dei The Flaming Lips, perché anche se non parla, diciamo, degli anni venturi, l'ho scelto per alcune frasi tratte dal testo che mi hanno trasmesso un'idea di speranza. C'è una frase in particolare: è difficile far durare le cose belle, ma alla fine capisci che il sole non cala, è solo un'illusione causata dalla terra che gira. E quindi con quest'idea nella testa, quindi di un sole che non tramonta mai, ma semplicemente svolge il suo ciclo naturale, anche tutto ciò che attraversa le nostre vite, per quanto possa essere effimero, ci lascia comunque qualcosa che risorgerà magari sotto una nuova forma il giorno successivo. Do you realize? Flaming Lips. Do you realize? E siamo giunti anche stavolta alla fine di questa mia puntata di Radio Prisma numero 16, Powered by Radio Pazza, come mi piace dire. Io sono DJ Prisma, come sempre, e vi ringrazio di nuovo, come sempre, per il paziente ascolto. Però, vedi, sto piano piano imparando a ridurre la mia logorrea, e questo può essere uno dei vostri auspici per l'anno a venire. A parte gli scherzi, sono davvero contenta di poter concludere l'anno con facendo una delle cose che più mi piacciono fare, quindi radio. Sto pensando però in effetti che la prima puntata del 2010 sarà la Radio Prisma 17. Vabbè, ma tanto noi non siamo superstiziosi, no? Giusto? E concludiamo quindi questa carrellata di brani con un adattamento di un poema di Robert Burns, poeta scozzese, che nel 1792 scrisse Auld Lang Syne, che sta per Old Long Since, ovvero i bei tempi andati, che viene, diciamo, utilizzata come canzone tradizionale, conosciuta anche come valzer delle candele, nei paesi di lingua anglosassone per dare l'addio all'anno vecchio, ma non solo, perché è anche un brano, poema, che viene utilizzato per, diciamo, per gli addii, per delle separazioni, quindi anche per ricordare i vecchi amici e il tempo che si è passato insieme. Quindi, considerandovi un po' come dei vecchi amici, anche se vi vorrei un po' più presenti, perché non so bene chi sono coloro che si sottopongono all'ascolto dei miei podcast. Vi ricordo che Bach, nello specifico, semplificato la procedura per i commenti sul nostro blog, per cui radiopazza.blogspot.com. se vi va, lasciateci un saluto, basta anche un semplice ciao, insomma, giusto per sapere chi siete, quanti siete, se ci seguite, se insomma, se vi piace come lavoriamo. Per cui questa canzone qui ve la voglio dedicare, e nella versione di una stupenda Aretha Franklin con Billy Preston. Ciao, e a questo punto a risentirci nel 2010. Un bacio. Thank you.